C'era una volta sulla Terra, e forse c'è ancora adesso, un potente imperatore che voleva assolutamente scoprire nuove terre. Che imperatore sono? Gridava. Se le mie navi non scoprono qualche nuovo continente, ricco d'oro, argento e pascoli, dove io possa portare la nostra civiltà. E i suoi ministri, maestà, ma non c'è proprio più nulla a scoprire su questa terra. Guardi sul mappamondo. E quell'isoletta piccina, piccina laggiù? Domandava ansioso l'imperatore. Ma se l'hanno messa sul mappamondo vuol dire che è già stata scoperta da quel dì, ribattevano i ministri. E magari ci hanno già fatto un villaggio turistico. E poi la gente oggi non va più per mare a scoprire isole e continenti. Oggi si visitano le galassie con le astronavi. Ebbene, rispose testardo imperatore, mandate un esploratore galattico che mi scopra almeno un pianetino abitato. Ed ecco che l'esploratore galattico, EG per gli amici, da tempo vagava per lo spazio immenso alla ricerca di uno straccio di pianeta da civilizzare, ma trovava solo pianeti rocciosi, pianeti polverosi, pianeti pieni di vulcani che sputavano fuoco verso il cielo, ma di pianeti belli abitati nemmeno l'ombra. Sino che un giorno, proprio nell'angolino più dimenticato di tutta la galassia, puntando il suo mega telescopio megagalattico, esploratore galattico vide una cosa meravigliosa, un pianetino grazioso, con un cielo azzurro appena spruzzato di pochi fiocchi di nuvole bianche, con valli e foreste di un verde che faceva piacere a guardarlo. E avvicinandosi ancora di più, vide che in quelle valli saltellavano animali graziosi di tutte le razze, mentre degli omini piccolissimi, un po' buffi, ma in fin dei conti graziosi, portavano le piante, davano mangime agli uccelli, tagliavano l'erba, oppure nuotavano beati in fiumi e torrenti dall'acqua così limpida che si potevano vedere sul fondo miriadi di pesci multicolori. Esploratore galattico atterrò, scese dall'astronave e si vide venire incontro quegli omini che gli sorrisero e si presentarono. Buongiorno, signor straniero, noi siamo gli gnomi di Gnu. E poi sarebbero questo nostro pianeta. E lui chi è? Io, disse G, sono l'esploratore galattico del grande imperatore della Terra e sono venuto a scoprirvi. Ma guarda che caso, disse il capo degli gnomi. E noi che eravamo convinti di essere stati noi a scoprire lei. No, disse G, sono io che scopro voi, perché noi sulla Terra non sapevamo che esistevate e così prendo possesso di questo pianeta in nome del mio imperatore per portarvi la civiltà. A dire la verità, fece il capo degli gnomi, neppure noi sapevamo che voi esistevate. Ma non litighiamo per così poco, altrimenti ci roviniamo la giornata. Dica piuttosto, che cosa è questa civiltà che volete portarci e quanto costa? La civiltà, rispose G, è tutta una serie di cose meravigliose che i terrestri hanno inventato e il mio imperatore è pronto a darvela gratis. Beh, se è gratis, dissero contenti gli gnomi, la prendiamo subito. Però scusi, signore, sappiamo che a caval donato non si guarda in bocca, ma vorremmo avere una piccola idea di come sia la vostra civiltà. Ci può dar torto? E Gibbo funchiò un poco, perché a scuola gli avevano insegnato che quando gli esploratori antichi portavano la civiltà in una nuova terra, gli indigeni se la prendevano senza protestare. Tuttavia, orgoglioso com'era della civiltà della Terra, tirò fuori dall'astronave il suo mega telescopio megagalattico, lo puntò verso il pianeta e disse: Venite a vedere con i vostri occhi. Che macchina, che tecnica, dicevano gli gnomini ammirati di fronte al mega telescopio megagalattico, e a turno ciascuno di loro guardò verso la Terra. Ma io non vedo nulla, disse il primo gnomo di Gnu, vedo solo del fumo. E G controllò, poi chiese scusa. Ho puntato per sbaglio sopra una città, sapete, con tutte quelle criminiere delle fabbriche, lo scappamento di autocarri e delle automobili, c'è un po' di smog. Capisco, disse un gnomo. Anche a noi capita che quando è nuvolo non si vedano le cime di quei monti, ma forse domani farà bello e si potrà vedere che cosa lì che lei chiama città. Temo di no, disse G. Ormai lo smog rimane anche la domenica. Peccato, disse l'ognomo. Ma che cos'è quell'acqua tutta nera al centro e tutta marrone vicino alle rive? Chiese il secondo gnomo. Oh, perbacco, devo aver puntato sul mare, sapete, in mezzo al mare naufragano le petroliere e si spande tutto il petrolio sulla superficie e vicino alle rive. La gente certe volte non controlla gli scarichi e così finiscono nel mare, come dire, le cose brutte che gli uomini buttano via. Ecco, Vuole forse dire che il nostro mare è pieno di cacca? Chiese il secondo gnomo e tutti gli altri risero perché agli gnomi di gnu, quando uno diceva cacca, veniva da ridere. E G stette zitto e il secondo gnomo mormorò. Peccato. Ma che cos'è quella distesa grigia con sopra quelle cose biancastre senza alberi e tutta piena di barattoli vuoti? Chiese il terzo gnomo. Dopo un controllo, l'esploratore galattico disse: Ma è la nostra campagna. Sì, ammetto che abbiamo tagliato un po' troppo gli alberi e la gente ha la cattiva abitudine di buttare via sacchetti di plastica, scatole di biscotti, barattoli di marmellata. Peccato, disse il terzo gnomo. Ma che cosa sono? Chiese il quarto gnomo. Tutti quegli scatoloni di metallo messi uno dietro l'altro su quella strada. Ma sono le automobili, sono una delle nostre invenzioni più belle. Servono per andare velocissimamente da un posto all'altro. E perché stanno ferme? Chiese ogni uomo. Rispose imbarazzato l'esploratore galattico. Sa, ce ne sono troppe e spesso avvengono degli intasamenti di traffico. E quegli esseri feriti al lato della strada chi sono? Chiese ancora ogni uomo. Quelli sono feriti in un momento in cui non c'era intasamento di traffico e così sono andati troppo in fretta. Sa, ogni tanto accadono gli incidenti. Ho capito, disse ogni uomo. Quelle vostre scatole, quando sono troppe, non vanno avanti e quando vanno avanti, quelli che ci sono sopra si fanno male. Peccato, peccato. Intervenne allora il capo degli gnomi. Scusi, signor scopritore, disse. Non so se ne valga la pena di guardare ancora. Forse la vostra civiltà ha degli aspetti molto interessanti, ma se la portate qui, noi non avremmo più i nostri prati, i nostri alberi, i nostri fiumi e saremmo un po' peggio. Non potrebbe fare a meno di scoprirci? Ma noi abbiamo un sacco di cose bellissime, disse piccato esploratore galattico. Per esempio, quanti ospedali avete voi? Noi ne abbiamo di bellissimi. E a che cosa servono gli ospedali? Chiese il capo degli gnomi dopo averli guardati dal megatelescopio. Beh, si vede che siete proprio dei primitivi. Servono per curare la gente che si ammala. E perché si ammala? Chiese il capo degli gnomi. L'esploratore galattico era proprio spazientito. Oh, insomma, vede quel signore laggiù? Ha fumato troppe sigarette e adesso noi gli facciamo un bel trapianto di polmoni perché i suoi sono tutti neri. E quell'altro? Prendeva una cosa che noi chiamiamo droga e all'ospedale cercano di fargli passare tutte le infezioni che si è procurato usando siringhe sporche. E a quell'altro stanno mettendo una gamba di plastica perché è stato investito da una motocicletta. E a quell'altro invece fanno la lavanda gastrica perché ha mangiato cibi inquinati. Ecco a che cosa servono gli ospedali. Non vi pare una bella invenzione? Ma come invenzione, disse il capo degli gnomi, non discuto, ma siccome noi non fumiamo sigarette. E non usiamo né droghe né siringhe per la droga, siccome non corriamo in motocicletta e mangiamo cibi freschissimi che crescono nei nostri orti e sui nostri alberi, da noi si ammala pochissima gente e basta una bella passeggiata sulle colline per guarire. Senta, signor scopritore, mi è venuta una bella idea. Perché non veniamo noi sulla Terra a scoprire voi? Beh, e poi, disse l'esploratore galattico, che in fondo si sentiva ormai un poco imbarazzato. E poi noi siamo bravissimi a tenere in ordine i prati e i giardini e a piantare alberi nuovi e a curare quelli vecchi che stanno per cadere. E ci mettiamo a raccogliere tutta quella plastica e tutti quei barattoli e diamo una sistemata alle vostre valli. Facciamo dei filtri di foglie per le vostre ciminiere. Spieghiamo alla gente della Terra com'è bello passeggiare senza dover sempre prendere l'automobile. Eccetera, eccetera, e poi magari qualche anno la vostra terra diventa bella come gnu. A EG pareva di vedere gli gnomi di gnu all'opera e pensava come sarebbe ridiventata bella dopo la sua e la nostra terra. Va bene, disse, torno a casa e ne parlo all'imperatore. Tornò sulla terra e raccontò la storia all'imperatore e ai suoi ministri. Ma il primo ministro fece un sacco di storie. Ma quanto a lasciar venire qui quegli gnomi di gnu, occorre pensarci. Bisogna che abbiamo un passaporto, che abbiano un passaporto, che paghino la tassa di immigrazione, la carta da bollo. E poi ci vuole il permesso dei vigili urbani, quello delle guardie forestali, ma anche quello della capitaneria di porto. E mentre parlava, il ministro scivolò su una gomma da masticare che un altro ministro aveva sputato per terra. Si ruppe le gambe, il labbro, il mento, tutte e due le narici, la spalla, la testa, e gli rimasero le dita impigliate nelle orecchie che non riuscivano più a districarlo. Nella gran confusione che ne seguì, il ministro fu buttato sul marciapiede e messo in mezzo ai sacchi dell'immondizia che nessuno raccoglieva più da chissà quanto tempo, e rimase lì a ricoprirsi di smog, aspirando le esalazioni che uscivano dagli scappamenti delle macchine. Per il momento la nostra storia finisce qui e ci dispiace di non poter dire che da allora tutti vissero felici e contenti. E chissà se i gnomi di Gnu li lasceranno venire da noi. Ma se anche non venissero, perché non ci mettiamo noi a fare quello che avrebbero fatto gli gnomi di Gnu?